per lei sicuramente sarà una partita soggettivamente importante. È la finale che avrebbe voluto, la finale che avrebbe sognato? No, la finale avrei voluto perché siamo in finale, per il resto non me ne importa niente. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Girano leggermente i coglioni quando sento dire io in Italia non ho vinto niente, si parla sempre di altissimi livelli, io ho fatto 8 promozioni da una categoria all'altra e sono andato sul campo in Coppa dei Campioni, questo è poco chiaramente visto da giornalisti abituati a parlare di Champions, però è un percorso difficile, la voglia di andare a vincere i trofei più importanti c'è in tutti noi. Quindi sai che mi piace tutto, perché alla fine non nego, e penso che l'ho detto più di una volta, ho fatto tanti copia e incolla in questi anni, ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a, è stato uno dei primi a cominciare a palleggiare nel campionato italiano. Mi piace tutto. C'è mai un momento migliore per incontrare la Juve, fa parte del loro DNA, fa parte della storia del loro club, è da tanti anni che danno continuità, hanno giocatori con grande mentalità, è un club di grande mentalità, bisogna portargli rispetto e giocarsela con le nostre armi. In questo momento il sentimento prevalente è quello di aiutare i giocatori a vincere un trofeo, di cercare di vincere per la società, di cercare di vincere per i tifosi. Non ho retropensieri né sugli avversari che andiamo a affrontare né su altre cose. Mi sento pienamente proiettato su di noi in questo momento. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta in questa puntata che sarà divisa in due. Metà dedicata al preview della finale di Coppa Italia, questa sera ore 21, Napoli contro Juventus allo Stadio Olimpico di Roma, e metà dedicata ai 50 anni di Italia-Germania 4-3, che è la partita degli italiani, la partita entrata nella leggenda, che rievocheremo dalle 14.35 con Gianni Rivera, l'uomo della provvidenza, quella notte a Città del Messico. 800 24 00 24, aspetto le vostre impressioni su quello che sarà Napoli-Juventus e anche i vostri ricordi sulla partita del secolo. 349-238-6666, sms, whatsapp, anche vocali. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Abbiamo già due ospiti che ci ascoltano. Allora, io vorrei partire così. Ci sono mille storie dentro questo Napoli-Juventus, ma quella più bella, per distacco, è certamente Maurizio Sarri, che cerca proprio contro il suo Napoli, quindi contro il suo passato, il filo della vittoria in Italia, perché poi ci perdonerà anche se gli girano i coglioni. Va bene le promozioni nelle serie minori, va bene la Coppa Italia di Serie D con il Sansovino, va bene tutto, ma la verità è che oggi a Napoli, carissimo Pier, si incontrano due allenatori vergini in Italia per quanto riguarda trionfi. Sì, assolutamente, infatti io direi che è una doppia grande storia, perché potrebbe essere il giorno capace di proiettare Gattuso in una dimensione diversa da quella in cui conosciuta dall'allenatore Gattuso. Ha fatto tantissima gavetta, forse anche troppa gavetta, forse si sarebbe meritato prima di salire, forse ha fatto anche qualche scelta, diciamo, impopolare, che forse gli esperti di marketing non gli avrebbero consigliato, perché è andato ad allenare in delle situazioni incredibili. Beh, insomma, oggi, anche un po' casualmente, considerato che all'inizio della stagione era a spasso perché aveva scelto di non continuare col Milan, ha la possibilità veramente di fare un salto di qualità, secondo me molto importante. Sì, e concretizzare anche un piccolo grande miracolo. Ah, esatto. E su Sarri, sì, io capisco anche poi il fatto che lui, dal punto di vista della comunicazione, non abbia più tanta voglia di parlare di Napoli, perché comunque, secondo me, è un terreno sempre un po' scivoloso, un po' impervio, che nel passato gli ha costato qualche errore, secondo me, sul piano della comunicazione. Le parole dette dopo la sconfitta al San Paolo quando disse che era meglio, se doveva perdere, era meglio perdere con la Juve, con il Napoli. Insomma, ecco. Però alla fine la storia è quella, cioè Napoli contro i suoi figli, Sarri contro i suoi figli, cioè, perché poi di quella squadra lì tanto resta. Allora saluto Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio. Ciao, un buon pomeriggio a tutti. E saluto Andrea Sarubbi, giornalista, politico, blogger italiano, leggo da Wikipedia, dove però non c'è scritto che è anche juventino fino al midollo. Andrea, ciao, buon pomeriggio. Sarebbe da aggiornare la pagina di Wikipedia. Si può sempre mandare una richiesta. Allora, sempre restando, perché partiamo da Maurizio Sarri, il primo maggio 2003, questa benedetta finale della Coppa Italia di Serie D, vinta dal Sansovino contro l'Uso Calcio, il 28 maggio 2003 all'Old Trafford Gattuso alzava al cielo la Champions League vinta in finale contro la Juventus. Ora, chiedo a Maurizio De Giovanni, a me sembra che sia un po' un'ossessione quella di Sarri, questo richiamo continuo alla sua gavetta, che per carità è una storia straordinaria, però è chiaro che oggi per tutti lui va a cercare il primo trofeo italiano della sua carriera. Non c'è dubbio, d'altra parte è anche naturale, io credo, da un punto di vista strettamente umano, che quando tu arrivi tardi a certe situazioni, a certi traguardi, dopo averli sognati per tutta la vita, il carico del passato, che è più lungo oggettivamente di quello degli altri, sia forte. Tu dicevi benissimo quando dicevi che Gattuso alzava la Champions mentre Sarri vinceva faticosamente la sua meravigliosa Coppa Italia di Serie D. E questo però, anche se con ruoli diversi, implica un'attitudine e un'abitudine a certi palcoscenici che a Sarri non è stata regalata da nessuno. Quindi Sarri arriva a questo punto veramente col gusto del presente, ma col carico importante del proprio passato. È una bellissima storia quella di Sarri, al quale io auguro veramente tanta soddisfazione. Da domani. A partire da un giorno che non certo. A partire da un giorno che non sia oggi, no? Immagino. Sì, poi a me viene anche il dubbio, che, Andrea, che sia anche un po' un segnale di nervosismo, no? Il modo anche con cui ieri lui abbia un po' rivendicato questa storia passata. Questo sì, può darsi. Certamente è una partita più importante per Sarri che per la Juve stasera. Nel senso che io parlo da tifoso juventino medio, medio-alto nel senso della passione, che è medio-alta, anzi altissima, sono molto più preoccupato del Lione il 7 di agosto, quando sarà, che non di stasera. E Sarri invece credo che per stasera darebbe un dito pur di vincere stasera un trofeo, ma per vari motivi, non soltanto perché deve mettere qualcosa in bacheca, dove il tifoso juventino medio magari non si ricorda neanche se la Juve di Coppa Italia ne abbia vinte 12, 13, 14 o 15, no? Ma perché Sarri appunto ce l'ha un po' più vuota, ma anche perché vuole dimostrare a se stesso e alla squadra che non è venuto lì a fare il soprammobile, quindi che può portare qualcosa alla storia della società. La Juve non ha tanto bisogno di Sarri in questo momento quanto invece Sarri abbia bisogno della Juve, secondo me. Sì, poi secondo me dobbiamo anche non dimenticarci, Pier, dove ci siamo lasciati. È vero che c'era stata la notte di Inter, di Juventus-Inter scintillante. No, stavo per dirlo. Cioè, ma c'era anche il Lione. Insomma, c'era anche il Lione, c'è una stagione bianconera fin qui veramente con alti e bassi, con dei momenti soprattutto senza una tendenza alla crescita, anzi con una tendenza all'involuzione, penso alla sconfitta di Verona di febbraio. Insomma, la Juve di solito in questi anni, a parte il famoso anno proprio contro Napoli con sulla panchina di Sarri sulla panchina del Napoli, di solito a questo punto della stagione la Juve già aveva chiuso il conto, perlomeno si era portata un bel vantaggio avanti. Quest'anno non è successo, quest'anno ha perso la Supercoppa italiana nettamente contro la Lazio, quindi io credo che Sarri, anche al di là dell'aspetto della bacheca e dell'aspetto del suo passato e del fascino indiscutibile della sfida col Napoli, oggi abbia voglia di cambiare un po' il segno alla stagione, ed è importante. Ecco, ragioniamo per contrasto. Se andassi in quell'altro modo, l'altro modo sarebbe se vince il Napoli. Sì, se vince qua, il Napoli sarebbe un problema. Sarebbe un problema per Sarri. Le scaramanzie bisogna sempre essere rispettosi, no? Ma noi viaggiamo sopra, Pier, io e no, te. No, noi sì, quindi. Però loro no. Maurizio se avrebbe apprezzato queste parole. Io ho cambiato mano al telefono. Ha cambiato mano al telefono. Vabbè, insomma, dai. Se oggi non dovesse andare ragazzi, bene, siamo in fascia protetta, su. Si aprirebbe un tema Sarri, su questo credo che non ci sia non ci sia discussione. Si è aperto un tema Conte dopo una buona partita. Volevo fare il paragone. Non è d'accordo nessuno razionalmente. Poi però il tema è lì squadernato. Metti che questa sera va nell'altro modo, nel senso vince il Napoli, e domani noi di che cosa parliamo, carissimo Pierre? I primi tre minuti facciamo gli applausi al Napoli, gli altri 57 discutiamo del tema Sarri. Secondo me questa cosa la sente. Sono per un mix un po' più equilibrato, ma non c'è dubbio che insomma se Sarri dovesse fallire, ma adesso godiamoci la partita di stasera. Però è ovvio che Sarri, a parte che gli esami non finiscono mai, insomma, visto che c'è il Napoli di mezzo, credo che si possa dire tranquillamente, ma in questo caso ancora di più, perché Sarri comunque un certo tipo di credibilità e di palmarès in Italia deve ancora costruirselo. E il paradosso è che è un allenatore giovane, cioè, il paradosso è che il giovane anagraficamente dei due è Gattuso, ma sono tutti e due allenatori giovani. Sì. E tutti e due sono a zero nella casella di vittoria in Italia. Allora, abbiamo un minuto e dobbiamo fermarci. Poi però ripartiamo anche da quello che ha detto De Laurentiis l'altro giorno a proposito di Sarri, del suo rapporto con il Napoli e Napoli. 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Un minuto, torniamo subito. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Punto di vista mentale abbiamo passato tutto un periodo strano, difficile, e da questi periodi non esce come prima. Ho trovato i ragazzi migliori, sinceramente, più aperti, più sorridenti, più disposti al dialogo, più disponibili, e probabilmente anch'io ho fatto un percorso, perché mi sono reso conto in queste settimane di essere molto più paziente con loro. Chi è stanco, chi non se la sente, chi ha non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio, e se perde un giorno non succede nulla. E sanno che chi scende in campo, quando fischio, voglio sempre gente che va a mille all'ora, perché non permetto a nessuno di rovinare un allenamento. Perché nella vigilia di Napoli e del Napoli c'è stato anche Gattuso che ha cacciato Lozano dall'allenamento, a proposito di livelli di pazienza. Allora, Pierluigi Pardo, Maurizio De Giovanni, Andrea Sarubi, state scrivendo in tante, ci state scrivendo anche che la partita del secolo è Italia-Germania 3-1 dell'82. No, la partita del secolo è Italia-Germania 4-3, 17 giugno 1970, non scherzate, c'è anche la targa alla zecca di Città del Messico. Io non so, Pier, se tu l'hai mai vista di persona. No, non l'ho mai vista, e tengo a precisare che, contrariamente a quello che può sembrare, la partita del 70 non l'ho vissuta, perché non ero nato. Neanche io. Voglio dirlo con gioia, però ieri sera a un certo punto la mia fidanzata, ma a un certo punto mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: ma perché tutti parlano di questa Italia-Germania 4-3 che non abbiamo vinto il mondiale? E io ho provato a spiegarle che poi è venuto fuori quasi un ragionamento filosofico. Certo. Guarda, io sostengo, non abbiamo vinto il mondiale, però quella partita lì rimane. Sostengo rimane nella attivamente forte, che andrebbe studiata nelle scuole, Italia-Germania 4-3. Se fai il tuo percorso di studi in Italia. Però questo è il mio parere. 14:35, Gianni Rivera, la rievochiamo insieme. Maurizio De Giovanni, Maurizio Sarri è ancora ed è veramente un traditore, come ha detto anche l'altro giorno De Laurentiis, che ha detto se n'è andato per volgari questioni di denaro? No, io sorridevo ascoltandovi, perché l'Italia non vinse il campionato del mondo così come il Napoli di Sarri non ha vinto lo scudetto. È la stessa cosa. Il Napoli di Sarri è stato il Napoli più bello, a mio modo di vedere, di tutti i tempi, sicuramente degli ultimi 40 anni. Credo che il Napoli di Sarri abbia veramente spostato le colonne d'Ercole, è stato innovativo, non aveva fuori classe, aveva campioni ma non aveva fuori classe, ha inventato il centravanti più prolifico della storia del Napoli, che è Mertens, che non era un centravanti e tuttora... E allora perché non dirselo senza metterci sempre il carico da 90? Perché quando si finisce una storia d'amore è difficile parlare bene della persona che, con cui sei stato, semplicemente. È stata una grande storia d'amore, finita per entrambe le volontà, entrambi credevano di andar meglio, per entrambi così, a mio modo di vedere, non è stato, perché poi non si cifra solo in contratti multimilionari un successo professionale, un avanzamento professionale. Io il Napoli di Sarri non l'ho più visto nelle squadre di Sarri, non l'ho visto nel Chelsea, non lo vedo nella Juventus, non credo che lo vedrò, perché continuo a ritenere che Sarri sia dentro nella categoria dei maestri di calcio, non dei gestori di campioni. I gestori di campioni sono un'altra categoria, sono quella dei Mourinho, degli Allegri, dei Guardiola, e i maestri di calcio sono questi, sono Sarri, Gattuso, sono quelli che fanno della materia che hanno una materia migliore, non che gestiscono la materia migliore che già hanno. Quindi io credo che le parole di De Laurentiis e quelle di Sarri siano soltanto le parole di due che escono delusi e sconfitti da una meravigliosa storia d'amore, sì, ma che fanno continuare. Anche fatica a farsela passare. Poi il paradosso, Andrea, io so cosa pensa Pier a proposito di questo, voglio sapere cosa pensa Andrea Sarubi, è che in realtà Maurizio Sarri non è ancora pienamente accolto dalla sua nuova patria, cioè anche i tifosi juventini nella pancia, nella stragrande maggioranza, continuano un po' a considerarlo una sorta di oggetto piovuto dall'alto nel mondo juventus. Il mondo juventino si è spaccato su Sarri, ma dovunque, in qualsiasi chat bianconera capitiate su WhatsApp, vedrete che ci sono i cosiddetti aziendalisti che difendono quindi la società e quindi hanno pazienza, e invece quelli che sono i nostalgici, chiamano così, o di Allegri o di Conte o di Lippi stesso di volta in volta, e ce l'hanno con Sarri perché non è riuscito a dare nulla di più di quello che c'era prima, perlomeno con Allegri non ci divertivamo troppo nell'ultimo periodo, ma quello anche per colpa nostra, perché probabilmente avevamo vinto troppo e quindi non riscoprivi più le emozioni di vincere, no? Magari quando non vinci tanto tempo ti basta vincere una volta, cioè il Napoli di Bianchi non è che fosse questo spettacolo della natura, per dire, insomma, cioè, anche la Roma che vinse lo scudetto con Capello non è che giocava un calcio fantascientifico, loro vinsero e tutti se la ricordano e così via. Noi juventini purtroppo questo qua non bastava più, perché ormai probabilmente avevamo vinto troppo, ci serviva un ricominciare da zero, e ricominciare da zero ti prendi i tuoi rischi. La cosa che mi preoccupa di più non sono però i tifosi, la cosa che mi preoccupa di più è sentire Buffon che nell'intervista uscita ieri, poi non so se l'abbia davvero rilasciata ieri o meno, credo a Gol, se non erro, ha detto sì, ma noi l'anno prossimo avremo il nuovo Sarri. Ora, se tu questa roba la dici a giugno, a stagione finita, io lo capisco. Se la dici invece a giugno, a stagione apertissima in corso, che vuol dire? Che ci dobbiamo aspettare noi in questi due mesi? Pier? Ma allora, io credo che, rimanendo su un tema alto, quindi legato ai tipi umani, legato agli aspetti filosofici, ideologici, psicologici, non soltanto tecnici, avendo Maurizio e Andrea possiamo fare questo tipo di discorso. Sarri c'entri poco col mondo della Juve, lo dico sinceramente, cioè, anche comunque, come stile comunicativo, no, anche per quello che abbiamo sentito come ieri comunicativo, perché è stato per anni dall'altra parte della barricata, perché ha parlato di assalto al palazzo, queste cose non sono da vedere, comunque oggi siamo in un tempo dove la memoria rimane di questo genere di cose, e anche perché la Juve con lui quest'anno ha fatto una scommessa, che è una scommessa per vincere le grandi partite europee, per migliorare la qualità del suo gioco nelle grandi partite. Quindi non che la Juve giocasse male, questo è un falso storico, non è che la Juve giochi male storicamente, però la Juve sappiamo che è il pragmatismo fatto società, fatto idea di calcio, e Sarri invece non è dall'altra parte dello scenario, no? Quindi io credo che ci siano tutti tantissimi aspetti che hanno reso questo tipo di menage non semplicissimo. I risultati non hanno aiutato del tutto, perché tolta una prima fase, poi insomma la Juve non ha convinto, non ha brillato, però siamo all'inizio di tutto, cioè siamo ancora in una fase, mi ricordo, facciamo questo discorso a febbraio, poco prima della pandemia. Se ricordi, Pier, ne parlammo ancora con Andrea Agnelli, che ci diceva che attendeva la scintilla. Sì, ma voglio dire, legandolo al ritorno, cioè, della Champions League nella seconda fase, il grande palcoscenico, la grande, le grandi partite europee, da adesso in poi c'è stato tutto quello che sappiamo, quindi la stagione comincia adesso, comincia stasera, potremmo dire, la stagione della Juve, questa è la verità. Giulio, provincia di Modena, 800 24 00 24. Giulio, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io mi riferisco proprio al discorso che faceva adesso Pardo sulla comunicazione. Ecco, Sarri per i primi 5 mesi di Juve mi pare sembrasse quasi non più lui, quasi impegesito per quello che era il suo stile. Diciamo, quando lui ha cominciato a dire in questi giorni che la squadra la vede più tranquilla, lui ha cominciato a essere Sarri, che a me piace perché è la sua caratteristica comunicativa. Il campo dirà stasera se scoccherà una scintilla oppure no. di certo se stasera dovesse non vincere avrà già la fossa molto scavata, perché a quel punto arrivare alla Champions e allo scudetto in fondo con quelle polemiche che vivrà nell'ambiente juventino, dove certi in mezzo dei campioni dire io ho vinto 8 volte eccellenza, Serie D e quant'altro, credo che nell'universo Juve sia molto lontano da quello che è. Sì, però ricordiamoci che ci fu anche un altro visionario, Arrigo Sacchi, che portò i suoi da Parma al Milan e disse guardate come giocano loro, che faceva un po' sorridere in quel momento, e poi in realtà si rivelò una delle chiavi per arrivare dove è arrivato il Milan e dove è arrivato Arrigo Sacchi. Abbiamo ancora un paio di minuti. L'ultima storia nelle storie, quella di Gattuso, che ha certamente, Maurizio De Giovanni, un livello di empatia superiore rispetto a Sarri con il mondo circostante, però è un altro, ad esempio, che si arrabbia non poco, e lo ha fatto più volte, quando gli dicono che è ringhio anche in panchina. E mi sembra che anche ieri lui abbia detto, in realtà io mi ispiro a Sarri. No, io credo pure questo, che Gattuso sembri perennemente una persona diversa da quella che è in realtà. A Gattuso si attribuisce sempre questa rabbia, questa determinazione che sicuramente ha, ma si attribuisce anche un atteggiamento di eccessivo livore, eccessiva competitività, di agonismo accentuato, che in realtà lui ha molto meno. Gattuso è una persona molto equilibrata, capace di modellare durante la partita la propria squadra sugli avversari. Gattuso stasera ha una condizione ottimale, perché parte, avete visto voi stessi, noi stessi in questa trasmissione abbiamo parlato di vittoria o sconfitta della Juventus, cioè come se partita, Napoli fosse ospite, esatto, su una partita singola. E io sono molto contento di questo, perché su una partita singola e soprattutto una finale che si gioca a Roma, tu hai detto inizialmente si incontrano a Napoli, no, si incontrano a Napoli, ho sbagliato, no, giocano a Roma, si incontrano a Roma in una condizione in cui c'è un evidente clamoroso favorito che può solo fallire, è un outsider che gioca la partita. Non voglio neanche sapere dove è finito il telefono di Andrea Sarubi. Ma è che vince, era subliminale probabilmente. Però è tasca, Maurizio, però è perfetto, va benissimo così, perché Gattuso può giocarsi col pieno equilibrio la partita dello sconfitto, che è sempre una partita che può non finire con una sconfitta, ecco. Sì, Andrea? Io dico che, come ha scritto più volte Maurizio De Giovanni nei suoi pezzi, quando scrive qualche editoriale, la Juve è il più grosso avversario del Napoli. Però dico altrettanto che il Napoli non è il più grosso avversario della Juve. Quindi per noi questa partita, diciamo, ha un peso... Cioè Inter-Juve sarebbe stata una finale diversa. Ecco, dice. Io infatti... magari ci hai un po' sperato. Ho tifato Napoli alla morte. Hai tifato Napoli. Ho pensato, preferisco avere il 50% di possibilità di vincere con Napoli piuttosto che il 55% di vincere con l'Inter, perché il solo 45% di perdere la Coppa dall'Inter mi avrebbe fatto dormire male per 3 notti. Invece se la perdo a Napoli sono anche un po' contento per loro, voglio dire. Non dico che sono come Sarri, ma insomma, meglio loro che altri. Va bene. Quindi vedete che tutto confluisce verso un esito. Sì. L'abbiamo disegnata così apposta questa prima parte della trasmissione. È tutto apparecchiato. Allora poi i giocatori del Napoli si metteranno in fila, andranno a prendere da soli la coppa, perché questa è l'altra particolarità che vivremo questa sera, obbligati insomma dall'emergenza che stiamo attraversando. Io sono molto curioso di vedere questa premiazione, che non sarà una premiazione, cioè immagino un tavolino con la coppa dentro le medaglie, spero il capitano che va e le distribuisce agli altri, ma non so, sono curioso di vedere che cosa capiterà. Ci aggiorniamo domani, ne parliamo. Allora, grazie Maurizio De Giovanni. Grazie Maurizio. A voi, un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie ad Andrea Sarubi. Grazie a voi. E grazie anche a te, Pier. Ciao. Facciamo la staffetta. Ti sostituiamo con Dario Ricci adesso, tra pochi istanti, dopo la borsa. Arriva il momento di rievocare Italia-Germania 4-3, la partita del secolo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Convocati. Salve, il mio ricordo di Italia-Germania del 70, ero militare, finito la licenza, la sera partì da Bari per andare a Catania. Nel compartimento eravamo quasi 8 persone, io avevo la transistor piccolino, mise l'auricolare e dopo pochi minuti gol di Boninsegna. Pian piano che andava avanti, si sentiva o non si sentiva la partita, dipendeva dalla traiettoria del treno. Pian piano mi addormentai. Di colpo, gol di Snellinger, la voce di Enrique Amin. Andai nel corridoio, sentivo o non sentivo la frequenza della partita. Si alternavano gol uno dietro l'altro. Come riprese di nuovo frequenza? Gol di Rivera! Essendo anche riveriano e milanista, praticamente nel treno è successo un casino. Tutti mi volevano buttare giù. Chi bestemmiava in siciliano, in calabrese. Vattene a Russo, vattene! E io che gridavo, l'Italia ha battuto la Germania, abbiamo battuto la Germania, abbiamo battuto la Germania! Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare, l'Italia è in finale della Coppa Rimini. La partita Italia-Germania alla radio, in treno, in piena notte, non è male. Dario Ricci, ciao Dario. Ciao Giovanni. Che ci ha accompagnato in questa settimana nel racconto di quello che è stato per 50 anni e che è tuttora Italia-Germania 4-3, la partita degli italiani. Saluto l'ombra del partito, l'uomo della provvidenza Gianni Rivera. Gianni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera quasi. Buonasera quasi con il fuso orario messicano. Hai visto che cosa succedeva mentre tu mettevi quel piattone lì di destro? No, non avevo modo di guardare un'altra cosa. Guai se guardavo da un'altra parte, non l'avrei preso il pallone. Dovevo essere concentrato sul pallone che stava arrivando. Sì, tra l'altro tra le tante letture di questi giorni, perché sono usciti anche tanti libri su Italia-Germania 4-3, non so dove, ma ho letto che c'è stato un giornalista anche importante che ti chiese poi se avevi segnato di destro o di sinistro. No, per dire la verità, io ero convinto di aver fatto gol di sinistro interno, invece l'ho fatto di destro interno, perché non solo ho cambiato la posizione, perché l'idea era di metterlo di collo di sinistro dall'altra parte della porta dove Maier non era ancora potuto arrivare, però qualcosa mi ha dato l'impressione che Maier stesse già tuffandosi e quindi non solo ho cambiato la direzione, ma ho cambiato anche il piede e quindi faccio gol con l'interno destro ed ero convinto di averlo fatto con l'interno sinistro. Alle volte si entra nella leggenda anche senza accorgersene. Dario, vai. Beh, le emozioni sono tante perché veramente abbiamo raccontato in questi giorni, Giovanni, Gianni, le emozioni degli italiani, no? È come un appendiabito della memoria quella partita, ognuno ci ha appoggiato il suo ricordo perché è un punto focale. Gianni, ti chiedo subito, secondo te che cosa è sopravvissuto fino ad oggi di quella partita nel DNA del nostro paese, della nostra nazione? Tutti hanno da raccontare qualcosa di positivo nel momento in cui si stava svolgendo la partita e quindi ognuno aveva un racconto particolare, però tutto concentrato sul risultato della partita. Poi ci hanno anche detto che alla sera appena finita la partita sono andati a festeggiare gli italiani di destra, sinistra, centro, tutti insieme, per cui abbiamo senza volere fatto unificato l'Italia, che però purtroppo è durata solo una notte. Cosa che in quel momento storico, stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, non era scontata, no Gianni? Ah beh, certo, non era scontato, però questo è importante perché c'è sempre un motivo per poter condividerlo in tanti e anche con idee diverse. Per cui il calcio evidentemente è in grado di dare questo messaggio. Ti portiamo i saluti di Giancarlo che ha scritto al 349-238-6666, che aveva 9 anni e che io mi sento molto vicino a lui. Fu costretto dalla madre, siccome era troppo tardi, a vedersela registrata il giorno dopo. Questo era abbastanza normale. I ritmi della vita delle famiglie andavano mantenuti. Sì, però 17 giugno a scuole finite, dai. Quell'età lì. si rigava più dritti. Questo giorno, oggi, 17 giugno, siamo nel 2020, quindi 50 anni dopo, è un giorno particolare per te? O lo vivi normalmente, al di là che ti avranno chiamato in mille oggi? Oggi, ormai sono 10 giorni che tutti i giorni c'è da parlare di questa cosa, quindi la cosa mi fa molto piacere perché vuol dire che c'è sempre un grande interesse, quindi mi sono messo a disposizione. Però ho cominciato diversi giorni fa, non è successo tutto oggi. Ma c'è un momento in cui avete capito che cosa sarebbe diventata quell'Italia-Germania? Cioè, al di là della gioia per aver vinto... L'abbiamo capita quando abbiamo telefonato a casa dopo la partita, come facevamo di solito, sentivamo i nostri amici, dirigenti e soprattutto genitori, e ci hanno raccontato cosa era successo in Italia, quindi abbiamo capito che doveva essere successo qualcosa di particolare. Dario. Gianni, ma ho sentito nella risposta che hai dato precedentemente, forse anche da arrivata alla tua esperienza politica, un po' di rimpianto, no? Per quell'Italia che è stata unita solo per quella notte. Ecco, forse un po' dello spirito di quella notte farebbe comodo anche adesso, volevi intendere? Adesso noi anzi approfittiamo per dedicare a tutti i deceduti del coronavirus questi momenti particolari belli che credo che anche loro abbiano vissuto. E almeno insomma ce lo auguriamo, e questo è un bel pensiero, così come è anche bello il pensiero che è stato fatto da tanti all'inizio di legare questo 50° con la finale di Coppa Italia. Si poteva partire col campionato, si poteva ripartire in altri modi, e si è scelto di ripartire con la Coppa Italia, di assegnarla oggi anche per farla coincidere perché simbolicamente avesse un segnale ancora maggiore di ripartenza. Il paradosso, Gianni, è che quella partita sta nel cuore degli italiani, nella storia, nella leggenda, anche se poi in realtà è legata a una finale persa, se si vuole poi andare al sodo di un risultato. Sì. Però si sapeva che il Brasile era molto forte, quindi non è. Però il problema è che non abbiamo provato tutto, perché se ho giocato la semifinale con la Germania, a maggior ragione avrei dovuto giocare la finale col Brasile, che è una squadra che lascia giocare, perché pensa sempre di fare un gol in più degli altri. E quindi sei in grado di mettere in pratica le tue qualità. Quindi la staffetta è una ferita che non si rimargina. No, la staffetta era una cosa senza senso, perché cambiare un giocatore dopo un tempo, non sapendo come andrà a finire il primo tempo, è un'assurdità tecnica. Però purtroppo capitano anche queste cose e abbiamo dovuto convivere. Dario? Va anche detto che c'è un collegamento forte anche con una finale vinta, Giovanni, perché sulla panchina della Germania, allora Ovest, ricordiamolo, come assistente di Helmut Schön c'era quello Jupp Derwall, che poi sarà il CT della famosa finale di Madrid del 1982, altra straordinaria vittoria azzurra, tant'è che negli studi fatti questi giorni, no, Giovanni, ricostruivo che fu proprio Derwall in qualche modo a suggerire a Schnellberg, con un segnale che un po' avevano messo a punto loro due, anche a dispetto dello stesso Schön, di farsi avanti verso l'area avversaria, cosa che Schnellinger, già aveva fatto, perché comunque l'idea era quella di avvicinarsi un po' agli spogliatoi. Sì, perché era sempre raccontata così. Lui l'ha fatto per quello, non credo che abbia sentito quello che ha detto l'allenatore. Lui non voleva incrociare gli sguardi di noi milanisti, che giocavamo con l'Italia, e quindi ha detto: la partita sta finendo, meglio che vada velocemente negli spogliatoi, che erano dietro la nostra porta. Guarda, c'è chi ci scrive che l'Italia di Messico 70 è stata la migliore della storia, insieme a quella di Argentina 78, col paradosso che nessuno dei due ha vinto i mondiali, Gianni. Tante volte capita che la migliore non vince. Il bello del calcio è che il risultato finale si sa sempre quando finisce la partita, mai prima. E quindi può essere che una squadra è considerata più forte, favorita, ma può perdere. E il bello del calcio è anche questo. Allora, abbiamo un minuto di traffico, quindi chiedo un minuto di pazienza a Gianni Rivera per poi completare la nostra chiacchierata, e torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Tutti convocati. C'è anche chi a 9 anni fu svegliato dalla mamma per vederla nel pieno della notte. Carlo da Milano, un po' più fortunato dell'amico che abbiamo citato prima. Dario Ricci, Gianni Rivera. Oh, a Gianni Rivera giro questo messaggio, poi torniamo sulla staffetta, su Italia-Germania 4-3. Alessandro da Novi Ligure chiede: vedremo mai mister Rivera sulla panchina dell'Alessandria? Mister Rivera, perché Rivera ha preso il patentino. Non, questo non si può sapere, perché tutto dipende dalle dirigenze delle società. Le società fanno le loro scelte. Io mi sono detto disponibile, perché ho deciso di fare il corso di prima categoria, poi vediamo chi è che è interessato a chiedere la mia partecipazione all'attività tecnica. Che è meraviglioso, cioè, Dario. Rivera sul mercato, questa è anche la notizia che possiamo lanciare. In tempo, insomma, di panchine bollenti, direi che è una notizia che arriva da Radio 24, interessante, no, mister? Ma per adesso c'è la ripresa, vediamo cosa succederà, vediamo che facciano velocemente la ripresa tutti. Adesso aspettiamo la finale di Coppa Italia e poi vedremo il resto del adesso campionato. Adesso ci sono un paio di mesi mica da ridere. A proposito, la UEFA sta confermando tutto ciò che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, dunque Final 8 di Champions League in 11 giorni nel cuore del mese di agosto, finale a Lisbona il 23 agosto, finale dell'Europa League in Germania il 21 agosto, insomma non avremo da annoiarci, Gianni, no? Pare di sì, staremo tutti attenti a vedere cosa, intanto come riprenderanno i giocatori in questo periodo che è particolarmente difficile e complicato, però ad agosto le cose saranno già diverse. Se giocheranno fino ad agosto vuol dire che avranno ripreso la loro condizione normale. Ma è stato giusto fare di tutto per ripartire? Era giusto fare di tutto per ripartire, altrimenti non si è pronti per l'anno dopo, perché i campionati vanno finiti nelle singole nazioni, perché poi ci sono le coppe da disputare. Se non si può indicare qualcuno che partecipa alle coppe, si fermano anche quelle. Sì, poi c'è il dibattito, no? Se sia stato e se sia calcio vero, calcio da amichevole o calcio da dopo lavoro. No, questo rimane, abbiamo calcio, sentite di tutti. Noi eravamo abituati, chi ha giocato a calcio era abituato a giocare anche all'oratorio, e tanto pubblico non c'è mai stato negli oratori. Però se uno ha la passione gioca lo stesso, quindi ti bisogna un po' sfatare questo tema che senza che tifosi senza non sia pubblico. Calcio. No, non è vero che non è calcio. Certo, il calcio è anche senza pubblico, perché i giocatori giocano anche senza pubblico. Certo, senza pubblico è più dispiace, quello sì, ma non si può, non è detto che non si possa giocare. Dario? Tra l'altro, no, a proposito di pubblico, un altro aneddoto legato alla partita del secolo: in tribuna allora era riuscito a infilare anche un'altra del nostro sport, Nicola Pietrangeli, che era riuscito a trovare un biglietto che era proprio dietro la porta dove segnò Rivera, quindi insomma tra vincenti evidentemente si era creata un bel feeling a distanza, no Gianni? Si vede che lo sapeva che andava a finire così, si è messo di là. Sì, meno male che ha mantenuto il segreto. Sì. Bisogna avere le vibrazioni giuste. Ma siete ancora in contatto con quel gruppo lì di nazionali, con chi c'è? Ad esempio gli azzurri dell'82 hanno la chat, no, su WhatsApp. No, io quei meccanismi lì faccio fatica a sopportarli, no? Ogni tanto ci troviamo perché c'è un ricordo da parte di qualcuno e via dicendo, e quindi ci si ritrova, ma metterci, io la tecnologia moderna non mi sono ancora fatto coinvolgere. Beh, c'è sempre il tempo, telefono è già, questo telefono è già tanto, però. che tra l'altro credo sia della moglie, adesso lo svelo così. Tra le altre cose, Scrive un amico, ma Rivera e Mazzola non avrebbero potuto giocare insieme? Abbiamo sempre giocato insieme, solo in quel momento non pare che non ne fosse possibile. Ma perché? Perché ho letto che a Repubblica hai detto fu una scelta politica, cioè cosa vuol dire? Eh sì, perché ci deve essere stata qualche spinta, ma tanto quelli che hanno fatto quella cosa non c'è più nessuno, quindi lasciamo perdere. Sì, è inutile rivangare. Abbiamo ancora un minutino, non di più, Dario. Allora, io ho l'ultima domanda e la faccio a Gianni Rivera, e cioè Italia-Germania 4-3 è entrata nel nostro DNA. Io prima ho detto andrebbe studiata a scuola, secondo me ne sono convinto, anche se mi sono arrivati dei pareri contrari. Ma Gianni Rivera ne ha vissuta un'altra magari di partita così bella, emozionante, coinvolgente, che di cui però non ci siamo accorti, cioè non resta poi nella memoria collettiva? Ma così emozionante, no, non è possibile, un'altra uguale a quella è difficile, però mi è capitato di vincere ancora delle coppe successivamente, fino al 79 che ho vinto il campionato della Stella col Milan e ho vinto ancora qualche coppa e quindi si sono ripetute certe vittorie, ma ripetere una partita così è praticamente impossibile. Dario? Gianni, vi lascio con una curiosità, perché mentre noi sono 15 giorni che celebriamo questa partita e continueremo a farla perché è nel nostro DNA, come abbiamo detto, Gianni, ti sorprende sapere che invece in Germania, pensa, non c'è neppure un libro che ricorda quella semifinale? Beh, in compenso c'è il mio libro che racconta tutta la mia vita. È vero, e parla anche della partita, tra l'altro. E anche parla di quella... Di quella partita, quindi se qualcuno lo volesse, allora voi scrivete www.giannirivera.it ed è possibile comprarlo e c'è. Poi pesa solo 4 kg, non è una cosa. No, sì, infatti. Ma del resto, tenere detto tutta la carriera di Gianni Rivera, non si poteva stare sotto i 4 kg, no? Sì, poi ho cominciato da quando sono nato. Per cui... Grazie, Gianni. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie a Gianni Rivera, ciao davvero. Ciao. E grazie anche a te, Dario. Ciao Giovanni, grazie a voi. Ciao, alla prossima. Allora, noi ci fermiamo qui con i 4 kg del peso del libro di Gianni Rivera e con questo 50° anniversario che ci teniamo stretti nel cuore. Perché non sono tante le volte in cui noi italiani abbiamo veramente qualcosa da ricordare e questo Italia-Germania 4-3 lo è assolutamente. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Giorgio De Luca in assistenza, Valeria Bernardi in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. L'appuntamento domani, GR dopo le 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.